perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Siamo qui, siamo i Funamboli. Alle 9 e 7 minuti, ritorniamo anche oggi, ultimo giorno della settimana, cara Veronica, poi puoi andare a Roma. Abbiamo fatto un'altra settimana, però guarda che bel sole che è uscito oggi a Milano. Secondo me l'ha fatto apposta perché sa che vado a fare il fine settimana a Roma e ha detto, oh, adesso guarda, la puniamo. No, ma tra l'altro non inizieremo sicuramente questa disfida tra Milano e Roma. Ti ricordo che due giorni fa facevate i campionati di canoa in Piazza del Colosseo. Comunque. Vorrei poter ribattere, ma non posso neanche ribattere, esatto. Capisci? Comunque. Però speriamo che nel frattempo il lago di Bracciano si sia riempito di nuovo, perlomeno. Infatti, che effetto positivo. 9-8 minuti, funamboli, @radio24.it è la nostra mail, ma potete chiamarci all'800 24 00 24. Vogliamo salutare la nostra squadra, il nostro Peter Bescapè in regia, Elisa Pancaldi che saluta con la manina, fa ciao, ma non è che ti si vede da lì, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, siamo in diretta anche Facebook, salutiamo noi con la manina. Veronica saluta, siamo in diretta Facebook sul canale Radio 24. Buongiorno a tutti. Allora, cara Veronica, che paese è? Oggi mi ha colpito due notizie del TAR, che riguardano il TAR. Il TAR del Lazio ci ha messo 15 anni per decidere su un aggettivo. È una vicenda della, tra l'altro, quello che viene definito René Monnezzari, Cerroni, a sì, Roma, certo. Lo conosci molto bene, che sulla questione tariffa minima, anzi massima, tariffa massima, ha fatto una causa al TAR per togliere quel massima. Dopo 15 anni il TAR ha deciso che quella parola va tolta. Altra notizia che riguarda il TAR del Lazio ha deciso di bocciare la settimana corta al liceo Aristotele di Roma, per cui all'Aristotele di Roma si andrà a scuola anche il sabato. E qui questa è una tragedia per gli studenti dell'Aristotele, siamo vicini. Ma quella bella vecchia proposta che anche un giorno Romano Prodi portò avanti, io dissi sì, di abolire il TAR. Ma dove è finita quella santa proposta di abolire i TAR? Non ti va giù questo TAR, eh? Ma non mi va giù perché... Non è che proprio snellisca le procedure il TAR, ecco, come dire, quando stai cercando di fare una cosa si ricorre al TAR e si ricomincia da capo. Si ricorre al TAR, e va bene. E il TAR del Lazio decide se all'Aristotele vanno a scuola il sabato o no. Non lo decide il preside, non lo decidono i genitori, lo decide il TAR, gli studenti manco li considerano ovviamente, il TAR del Lazio. Ma quest'anno abbiamo visto intervenire il TAR su infinite tematiche, certo. Ti ricordi anche le nomine dei dirigenti stranieri nei musei, è intervenuto quantità e quantità, la faccenda dei centurioni a Roma, ci sono tanti interventi del TAR che poi dilatano i tempi sì. E li dilatano ancora. E tu, cara, io invece vero? Oggi devo dirti che sono rimasta, come sempre, sono le notizie che mi scioccano di più, quelle legate alla sanità, e c'è questa inchiesta di Monza che devo dire è abbastanza inquietante. Il Tribunale di Monza ha disposto 21 custodie di carcere, tra carcere domiciliari. Le accuse sono associazione a delinquere, falso, corruzione, addirittura ipotizzate le lesioni. E sostanzialmente qual è la cosa? Venivano messe delle protesi all'anca, al ginocchio, andava bene qualsiasi cosa. L'importante era operare i pazienti, in qualunque caso. Leggere le intercettazioni sul Fatto Quotidiano. Con delle intercettazioni che sono agghiaccianti. Per esempio c'è questa. Ho fatto il taglio a mano libera, anche il femore. Non sta dentro una sega, speriamo non si spezzi. Oppure, nessun problema, ho preso un soggetto, detto tra noi, che poteva farmi da cavia, una signora anziana. Queste sono soltanto due. Oppure, ecco, ho protesi su protesi, faccio quattro protesi martedì e due il mercoledì, sono pieno di ginocchia, o te vai sereno. queste sono soltanto alcune. Vabbè, che l'ultima magari è uno che opera tanto, però effettivamente dalle intercettazioni non si può fare un processo, ma sono inquietanti. L'idea che le persone vengano trattate veramente in questo caso come cose su cui fare il business sulla loro salute è una delle cose più agghiaccianti che c'è in assoluto. Ora vediamo come si risolverà questa inchiesta, quali saranno gli altri gradi di giudizio. Chiaro. Chiaramente vediamo come si evolve. Però queste sono tra le storie più inquietanti che ci sono, perché già queste sono storie brutte, ma quando c'è di mezzo la salute, mamma mia! Eh sì, intanto salutiamo Fabrizio che ci ascolta dalla Germania e dice: mi alzo la mattina e aspetto Manera. Arriverà anche Manera, ci ascolta dalla Germania, io guardo dalla Germania, non sto guardando la nostra redazione per dire, ci sta ascoltando dalla Germania, siccome abbiamo gli ascoltatori dall'estero che poi chiameremo. Ragazzi, Germania, capito? Segniamoci questo numero, Germania. Va bene, li vedevo un po' distratto. Dai, le 9:12 minuti, noi partiamo però dalla scuola. Oggi e da un aspetto preciso. Funambolici proprio fino al midollo, sì. Perché la scuola, e poi arriviamo alla fine della prima settimana scolastica, la riapertura delle scuole, sappiamo che quest'anno è proprio, insomma, piena di tematiche controverse. E adesso cerchiamo di affrontarla in un'ottica veramente da funamboli. Come si sopravvive alle varie direttive? Come barcamenarsi? This is one device, and we are calling it iPhone. Today. Il lancio 10 anni fa dell'iPhone di Steve Jobs, il primo smartphone. Gli smartphone, mamma mia, io ho dovuto dare a mia figlia. Tanto non mi ascolta in questo momento, spero che sia in classe, in prima media, il cellulare, come promesso. Vabbè, sono delle colazioni intense alla mattina e i genitori mi capiscono, perché si svegliano questi bambini, non c'hanno ancora i cisponi negli occhi e si fiondano. Dove hai messo il cellulare, papà? Il cellulare, perché l'amica gli avrà detto già buongiorno, buonanotte, come stai, come ti vesti. Vabbè. Perché ormai fare? Anche quando sono così piccoli, per esempio, sì. La tua qui ne ha 10. 11 e 11. A 11 già con le cispone negli occhi ha bisogno del telefono. Quindi come utilizzare questi smartphone, sì. Facendo venire l'ansia. Facciamo gli spiritosi. Fate gli spiritosi, no? Non ci distraete. Io stavo già dicendo a Veronica: spegni il cellulare, quel telefono. Anch'io già pronta a connettermi allo smartphone. Se no ditelo allora. Perché questa storia dello smartphone è abbastanza controversa e molto discussa, in particolar modo relativamente alla scuola. Perché già sappiamo che è un tormentone per tutti quanti in tutte le zone che sono fuori dal confine scolastico. Ma l'idea che possa entrare anche dalla porta principale a scuola genera tutta una serie di dubbi e... Eh sì, sono i dubbi che ha lanciato però anche il ministro Fedeli, che ha detto forse l'utilizzo dello smartphone a scuola è un qualcosa di positivo, è un qualcosa che dovremmo introdurre. Vogliamo discutere di questo tema anche con i nostri ascoltatori, 800240024, l'utilizzo degli smartphone a scuola. Il ministro ha istituito una commissione ministeriale per costruire le linee guida dell'utilizzo dello smartphone in aula, e quindi per la prima volta si riapre, perché era invece vietato dal 2007 l'utilizzo dei telefoni a scuola, degli smartphone a scuola. Quest'anno ci sono una serie di provvedimenti controversi, come la bocciatura che abbiamo trattato alle elementari e alle medie, e adesso di nuovo reinserire lo smartphone. Allora, i nostri ospiti, Angela Biscaldi, la salutiamo, buongiorno, ricercatrice di antropologia all'Università di Milano, benvenuta. Buongiorno. E salutiamo anche Luca Menti, fondatore e amministratore delegato di Vicker, è un'app per trovare lavoro, quella che mette in contatto quelli che hanno le esigenze quotidiane e quelle che le forniscono. Lo dico in maniera molto sintetica. Menti, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a tutti. Allora, Angela Biscaldi ha fatto un esperimento interessantissimo. Ha condotto questo esperimento su 46 studenti, terza, quarta e quinta liceo, quindi siamo più in là con gli anni di mia figlia, a Crema. L'esperimento era questo: rinunciare all'uso di social network e WhatsApp per una settimana. È un disastro. È stato uno sfacelo. Una tortura. 46 studenti sono riusciti, 3 soltanto. È così, Biscaldi? È così. Allora, devo un po' precisare che questa ricerca è una ricerca etnografica, quindi è una ricerca qualitativa, quando sta ascoltando il racconto e la testimonianza di 46 studenti, che appunto sono pochissimi rispetto al numero di giovani, certo, che utilizzano lo smartphone, e non aveva la pretesa di dire cosa è giusto, cosa è sbagliato, no, di voler togliere gli smartphone, di elaborare riflessioni generali. Insomma, sono dette molte cose su questa ricerca. Però intanto il primo dato è questo, come diceva Veronica, sì, in tre sì, ce l'hanno fatta ad arrivare alla fine della settimana in completa astinenza, 3 su 46. Sì. E la motivazione era la noia principalmente e la paura di rimanere non connessi, giusto? Sì, sì, sì, giusto. Devo dire che noi abbiamo utilizzato una metodologia particolare, perché non abbiamo tolto il cellulare proibito, nel senso sequestrato, come uh-huh, hanno fatto altri che hanno fatto l'esperimento, l'abbiamo lasciato e abbiamo chiesto a questi ragazzi un atto di responsabilità, cioè abbiamo detto provate, quando non ce la fate più motivate, andate, perché state abbandonando. Uh-huh. E quindi è stata una ricerca basata proprio sul loro voglia di mettersi in discussione, di ascoltarsi. Sì. E la prima cosa, la prima difficoltà è stata che per questi ragazzi fare a meno del cellulare è una richiesta veramente... Lo so, lo so. Guardi, incomprensibile. Un ascoltatore ci scrive: a un nipotino di 18 mesi che cerca i giochini sullo smartphone con cipiglio e manine esperte. Ma io, è vero, mio figlio più piccolo un giorno l'ho trovato a 2 anni e mezzo, 3 anni, è andato allo schermo della TV, lo toccava e voleva cambiare la pagina, come girare, come se fosse un touchscreen l'iPad, no? Dalla TV l'ho guardato, voleva cambiare il canale. Esatto, è praticamente un dispositivo incorporato ormai nelle loro pratiche, spontaneamente vanno sui social, la mattina appena si alzano allungano la mano, guardano, tant'è vero che alcuni sono usciti dall'esperimento senza accorgersene, perché spontaneamente, istintivamente, in un momento di distrazione sono entrati su WhatsApp. Ah, proprio come se fosse un riflesso pavloviano ormai. Sì, sì, sì. Esatto, e quindi c'è proprio una difficoltà anche alla motivazione, perché mi dicevano: ma perché dobbiamo farlo? Tutto sommato c'è, è utile, è bello, è veloce, ci permette di relazionarci. E quindi a maggior ragione l'esperimento è utile, secondo me, poi è stato ripreso anche in altre scuole, perché aiuta un po' questi ragazzi a riflettere su quanto questi strumenti in realtà sono invasivi nel modo in cui noi gestiamo le nostre relazioni. Ma controlliamo gli altri. Sono anche utili, sicuramente. Non so cosa ne pensa Luca Menti, che insomma di un'impresa digitale, di una startup, ha fatto e sta facendo la propria fortuna. Quindi immagino che sia un nativo digitale ante litteram, non so, Luca Menti. Diciamo che arrivo dall'era della carta anch'io, quindi, no, certo, però vorrei dire, analogico. Secondo me intanto bisogna differenziare e capire di cosa stiamo parlando, cioè se è lo smartphone oppure delle funzioni che all'interno ha lo smartphone. Perché leggendo anche i vari commenti in giro, alcuni obiettavano dicendo sì il tablet a scuola, mentre no lo smartphone, quando l'unica cosa che cambia in realtà sono solo le misure. E io trovo che lo smartphone sia un supporto digitale, e quindi dobbiamo trattarlo in quanto tale, quindi come un supporto. E sono anzi dell'idea che un'educazione all'utilizzo di questi supporti all'interno delle scuole sia invece una grande risorsa che potrebbe essere un'educazione. Che possa essere utile educarli e non lasciarli completamente invece nella giungla dei dispositivi tecnologici. Dice Luca Menti è un supporto, ma in mano a un undicenne, uno di 10 anni, si fa fatica a capire le potenzialità. Noi ragioniamo da quarantenni, cinquantenni, no? Da persone adulte. È proprio qua che invece, secondo me, diventano utili, molto utili gli insegnanti, perché questo supporto può essere utilissimo anche per le ricerche, però anche insegnare loro a filtrare i contenuti, quindi a capire, educandoli, se l'informazione che sto leggendo è veritiera, a capire da dove arriva, chi è la fonte di questa informazione, cioè non dando per scontato che la prima notizia che troviamo su un motore di ricerca per forza deve essere quella giusta. Però per esempio uno dei problemi che uno si pone è quanto vada a incidere sulla capacità di concentrazione dei ragazzi, perché sappiamo, no, che un utilizzo molto esteso dei social, essere perennemente connessi, si arriva negli Stati Uniti, gli studi dicono a 9 ore al giorno. 9 ore? Gli ho dato mezz'ora. 9 ore per gli adolescenti. Che poi diventa un'ora, un'ora e un quarto. quarto, un'ora e venti, insomma, nove sono tante, nove di cui molte all'interno della scuola, perché poi chiaramente nel momento in cui hanno gli smartphone diventa molto difficile fare i vigili e controllare come li utilizzano, cosa fanno. Allora, questo quanto incide per esempio a livello cognitivo proprio sugli studenti? Non si sa ancora. Io sono dell'idea che abbiamo ad oggi un potere in mano, e basti pensare questo: un ragazzino con uno smartphone in mano ad oggi ha più accesso, cioè ha l'accesso a più informazioni di quelli che poteva vedere il presidente degli Stati Uniti magari 10 anni fa. Sì, sì, bisogna poi vedere la qualità, esatto, filtrarle, come dice lei, perché è un flusso di informazioni disordinato anche, no? L'educazione sta proprio nel capire che questi strumenti non servono per mettere in fila delle caramelline, non servono per fare delle foto meravigliose con dei filtri pazzeschi che vanno a distorcere o anche quello. Difatti. Però io sono convinto, ed è un po' lo spirito su cui abbiamo fondato la nostra azienda, che la tecnologia debba essere al servizio dell'essere umano. Ma sicuramente, quello che ci dice Luca Menti, poi guarda quanti ascoltatori, Veronica, ci stanno chiamando, torniamo anche ad Angela Biscaldi. Una volta Alessandro Giglioli, mio amico e giornalista dell'Espresso, anche esperto di queste tematiche, mi ha detto una frase molto bella, dice: ma è inutile demonizzare questo strumento che tutti abbiamo in mano, è come una grande città, è come New York, è come Milano, Roma, ci sono delle vie pericolose, ci sono delle vie sicure, ci sono dei quartieri bene e delle zone in cui stare un po' più attenti. Bisogna, come tu non manderesti per New York un bambino di 10 anni da solo, lo accompagni, gli spieghi di qui si va, di qui stai attento, infatti, attraversa la strada con cautela. Uno dei problemi è che la tecnologia in sé è neutra, poi il problema è l'utilizzo che se ne fa e come, e l'educazione, certo, appunto. E come si educa a questo. Però mi faceva pensare molto il fatto che quelli che sono più perplessi su questo sono proprio gli studenti. Per esempio, un sondaggio in Svezia dice che il 57% degli allievi interessati considera positivo il fatto che siano loro vietati. Ma perché dai. Sì, perché evidentemente iniziano ad avere una percezione che il loro livello di concentrazione, adesione a quello che stanno facendo. Li vorrei conoscere sti svedesi intervistati. Guarda, in realtà in diversi paesi, e anche per esempio in Inghilterra, hanno fatto un sondaggio in cui dimostrano che riducendo l'utilizzo del cellulare la resa aumenta fino al 7%. Questo non c'è dubbio, soprattutto se lo usano 9 ore al giorno. Guarda un po', Giovanni ci chiama da Brescia, buongiorno, chiamateci all'800 24 00 24. Giovanni. Buongiorno Alessandro, sono Giovanni, l'ex disoccupato di Brescia. Ti ricordi quando telefonavo con come Giovanni? No? Come no? Eccoci qua. Ex, ho trovato perché? Lavoro, ma grande Giovanni! Ha trovato lavoro dopo aver chiamato a quanti corsi, dopo aver fatto corsi di formazione? Ho fatto 118 curriculum, 9 colloqui, corsi di formazione e lasciar perdere, ormai appartengono al passato. Un lavoro da 5,20 euro netti all'ora, non di più, a 35 chilometri da distanza, però come si dice dalle nostre parti, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Ma che lavoro fa Giovanni? Adesso faccio servizi di guardiania, sorveglianza e sicurezza. E quindi, come si dice, guarda, va benissimo, anche se ti restano su 800 euro mensili, te ne restano 600 in tasca, ma da 0 a 600 sono tanti. Giovanni, e questo è lo spirito straordinario. E adesso si punta ad averne 800, e poi 1000, e poi chissà. Andiamo per volta. Parlavo per lo smartphone, visto che anche mio figlio ha 11 anni, fa in prima media, e adesso farà la cresima e comunione a novembre, ovviamente c'è la chiesto. Guardi, io e mia moglie ci siamo già messi d'impegno tutti e due, sottraendo delle ore magari serali al nostro relax, a stare insieme, per andare a dei corsi tenuti dalla polizia o dal telefono azzurro sul cyberbullismo e su altro utilizzo appunto dei media da parte dei giovani. Io continuo, e sto iniziando adesso perché la piantina cerco di tenerla raddrizzata nel momento in cui sta crescendo, di continuare a parlare con lui, di continuare a confrontarmi, di non spaventarsi di niente, di non sentirsi in colpa se sullo smartphone che ogni tanto usa quello di sua madre dice qualcosa o vede qualcosa su YouTube, ma di parlare. Io continuo a dire: non posso regalarti 200 euro di smartphone e darti 50 euro di ricariche e non sapere quello che stai facendo. No, no, chiaro. Non possiamo controllare nel senso buono, ma facendo certo. sentire protagonista e non essere, diciamo, dei censori rigidi. Va bene. No, ma è chiaro. Questo è un altro punto. Angela Biscaldi, questo non faceva parte, credo, della ricerca, però l'idea del controllo di quello che fanno i ragazzi, certo, magari di 16 anni è un po' più difficile, i bambini, è una questione giusta? Ma guardi, io punto molto sulla responsabilizzazione. Ove si controlla molto, viene meno lo sviluppo del senso di responsabilità. Credo più nell'educazione, appunto, come diceva anche il collega intervistato, nella responsabilizzazione, quindi attraverso l'educazione al linguaggio, alla conoscenza di questo linguaggio, sì. alle responsabilità anche in questi nuovi ambienti virtuali comportano, anche sull'assunzione rispetto a ciò che si dice, a ciò che si scrive, che è una cosa su cui gli adolescenti, come vediamo oggi, sono molto in difficoltà, nel senso che hanno uno strumento che, di cui non riescono bene a conoscere le logiche e che spesso utilizzano anche in modo maldestro. Ma Angela, per esempio, quanto è difficile per lei, no, doverli controllare? Cioè, nel momento in cui loro possono portare gli smartphone a scuola, tenerli d'occhio, vedere come li usano, se lo fanno di nascosto, se si distraggono, cioè diventa quasi un ruolo da carabiniere, no? Ma io spiego molto chiaramente nella prima lezione che credo che l'apprendimento sia legato alla, innanzitutto alla relazione umana, chiedo proprio loro di mettere via lo strumento e spiego che un'aula universitaria è un'aula in cui c'è una trasmissione di un sapere, di valore, è una zona un po' speciale in cui è bello guardarsi in faccia, confrontarsi e riscoprire un po' il contatto umano, una circolarità del sapere, delle emozioni. Io chiedo addirittura anche spesso ai miei studenti di mettere via i PC e di ritornare a prendere gli appunti a mano. So che è una richiesta un po' strana, però recuperare senza tornare nel medioevo, perché non si ferma, come dire, un mare con le mani, però giustamente le dice recuperare anche un po' quel calore umano che questi oggetti fanno un po' perdere. C'è Jonathan da Palermo, buongiorno. Buongiorno, io sono Jonathan da Palermo, sono un insegnante di un liceo qui della mia città, sì. E volevo dare il mio contributo. Io faccio usare il cellulare, spero che questo non mi crei problemi col ministero. Lei già lo fa? No, aspetti adesso. Che vuol dire? Sì, autonomamente. Ho capito, ma in che senso? Ce lo spieghi? Cioè, guardi, in classe? Io sono insegnante di lingua inglese, sì. E spessissimo gli studenti non portano più il dizionario, quello enorme che una volta noi studenti portavamo a scuola, no? Certo. E c'è un'applicazione eccezionale, diverse applicazioni di dizionari online. Non è che copiano la versione di inglese? Durante gli esercizi in classe, no? Quindi questo mi è tornato molto utile. Cioè, invece che portare il vocabolario, usano il vocabolario online, ecco. Quindi ma non succedono quelle cose che lei spiega e parla da solo, Jonathan? Cioè, i ragazzi ci stanno, l'ascoltano? No, questo non succede. Infatti voglio dire una cosa molto importante. Dipende in che scuola si insegna. È chiaro che nei licei, insomma, negli istituti tecnici è molto più facile. Nelle scuole difficili, dove già è molto difficile tenere le classi, questo, insomma, l'uso del cellulare diventa sì. veramente va bene, insomma, questa è un'esperienza da insegnante di inglese. Certo, in inglese c'è quella questione del vocabolario. Sentiamo Simona da Latina, anche lei, mi dicono, insegnante, giusto Simona? Sì, buongiorno, anch'io insegnante di inglese. Buongiorno, ci buongiorno. Dica. No, che ne pensa di quello che ci dice Jonathan? È un argomento talmente ampio, si potrebbe parlare per ore. L'unica cosa che ci terrei a dire è questa: purtroppo sono anni che chiunque disquisisce sulla scuola, mi rendo conto, non ha idea di che cosa sia la scuola in realtà, quali siano le dinamiche e quali siano le problematiche dentro una scuola. Io insegno alle scuole medie, quindi fascia 11-14 anni. Sì. Questi ragazzi non hanno più una vita al di fuori del cellulare. Da noi è vietato, non si potrebbe neanche tenere in tasca, ma nello zaino o nel cappotto. Non si sa com'è, riescono sempre a uscire foto fatte in bagno, messe nei social, casi di bullismo. E non sto in una scuola a rischio, anzi. un ambiente abbastanza sano. No, ma infatti il tema del cyberbullismo, per esempio, è un'altra delle tematiche degli effetti collaterali degli utilizzi degli smartphone tra ragazzi, in particolare a scuola. Cioè, però io vorrei riprendere sapere... tutto quello che succede in maniera ossessiva e metterlo in rete, che è una minaccia costante. E questo esatto. Sì. Però Simona, qual è la soluzione? Perché ormai è come dire, il mondo non si ferma, no? Non sicuramente. Non è che si può pretendere di tornare indietro. No, assolutamente. Si può solo no. gestirla la situazione. Anche noi facciamo uso dei social, di internet e di tutto quanto. Sì. Ma questo voler sdoganare tutto in tutte le situazioni, io lo trovo errato. Perché comunque questa generazione sta perdendo anche il concetto di regole e di cosa si possa fare dove. Mm. Non è detto che tutto si possa fare ovunque. In qualunque contesto, certo. E poi sai qual è la risposta che ti danno quando tu cerchi di stimolarli alla conoscenza? Ti dico, professore, ma tanto c'è Google. Okay. Simona, questa è un'altra, no, un'altra, questa è un'osservazione molto interessante. Lo so, Luca Menti, dobbiamo chiudere questo spazio e andare in pubblicità. Tanto c'è Google, è una salvezza o tanto c'è Google è una condanna? Bah, è sempre l'utilizzo e l'educazione che diamo su cosa scriviamo su quella benedetta barra di ricerca con una lente grandimento finale. Dipende da questo. No, ma certo, io credo che l'educazione, che poi è la base della scuola, sia la base di tutto. Certo, l'idea, non so se hai visto Fedele, lo diceva, introduciamo lo smartphone anche con corsi di educazione, perché poi bisogna formare. No, l'idea anche è questa, e poi da lì c'è anche il dubbio delle risorse che ci sono, la possibilità di formare veramente prima gli insegnanti. Esatto. Ma Luca, una sola domanda: tu che vivi chiaramente connesso per ragioni lavorative, ti ritieni ufficialmente dipendente dai social e dalla tecnologia? Cioè, ti senti libero domani di mollare il telefono oppure no? Allora, io penso che cioè, mi sarebbe piaciuto vedere questa discussione quando magari c'erano le persone che ancora scrivevano sulla pietra, che hanno visto la prima penna stilografica. Magari anche lì chi voleva rimanere attaccato alle origini di battere uno scalpello su un sasso poteva avere questo tipo di remora. E poi c'è stata la stampa, ecco, allora, capito? No, difatti ho fatto proprio un esempio cercando di dare un'immagine. Sì, sì, no, certo. Quello che di cui sono sicuro è che comunque avere questo tipo di strumento a portata di palmo possa aumentare la velocità, aumentare la curiosità e il tempo di risposta sì. di tutte le persone che lo sanno usare. Ovviamente il problema qual è? Noi siamo in una fase transitoria, noi abbiamo vissuto la parte cartacea e stiamo, cioè, per dire, sull'attenzione, io in primis facevo finta di prendere appunti e facevo dei disegni sul foglio. Quindi adesso la cosa è uguale, far finta e usare il cellulare. No, però dobbiamo un attimo fermarci perché altrimenti sforiamo molto la pubblicità. C'erano ringraziamo... anche i bigliettini sotto il banco, diciamolo no. che c'erano. Luca Menti, fondatore e amministratore delegato di Vicker, e Angela Biscaldi, che ha fatto questa ricerca, è ricercatrice di antropologia a Milano. Continuiamo a parlare di scuola, state con noi, perché tra poco avremo uno dei dirigenti scolastici, io li chiamo presidi, non riesco a chiamare, i presidi, no? Come chiamo la scuola elementare, non primaria. Il preside è quello da cui devi avere paura di essere chiamato. Il Milan, bidello, dal non preside. L'assistente scolare, come si chiama? Il bidello, il preside, le elementari, le medie. Oh, io chiamo tutto così. Dai, dopo la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da carserver.it. Scopri il noleggio a lungo termine che ci mette la faccia. I funamboli. Oh, when I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody. Guarda, facciamo così. Noi a scuola li dotiamo di smartphone, loro però da scuola ci danno la carta igienica. Milan, stai diventando un bigotto, ma veramente un bigotto. Milan, cagnasta, sei contenta, che più il gattun come socio, che la bella gattina, romana. Non l'ho capito quest'ultimo messaggio, Veronica, no? Gattoni, gattini. Era complesso. Era complesso, era complesso. Il nostro ascoltatore al 349-238-6666. Ma guarda che sono tantissimi messaggi, Veronica. C'è chi dice... Questa è una tematica che accende moltissimo e ognuno si chiede, immagino, nel mandare i propri figli a scuola cosa è giusto fare, se ha senso, se non ce l'ha. Sì. Mio figlio di 13 anni ha il telefonino da 6 mesi, lo sa usare in modo responsabile, ma ormai è un canale YouTube suo, Perché questa c'è quest'altra cosa... Sì, perché poi c'è gli youtuber, quelli che cominciano invece a diffondere le loro cose sui social, cioè, ne succedono un po' di tutti i colori. Sai, una delle altre cose che non ci siamo detti prima è anche il ministro Fedeli ha detto che creerà una commissione ministeriale per valutare cosa sia giusto fare. Ecco, ma la domanda è, ma dei dirigenti, no, per carità, burocrati, possono realmente valutare se è giusto, idoneo per le capacità cognitive degli studenti? Spero che ci siano degli insegnanti, dei presidi all'interno. Io non di questa so com'è composta questa commissione, ma in realtà ancora è difficile adesso, essendo comunque una materia abbastanza nuova, valutare quali sono gli effetti collaterali. Mi chiedo se una commissione ministeriale può essere idonea a farlo. Se improvvisamente scompare la rete, ci chiede un ascoltatore, cosa fanno questi ragazzi? Come vivono? In che stato ce li ritroviamo? Non lo so, però vogliamo e stiamo parlando di questo. In realtà noi abbiamo chiamato Ezio Delfino, che è un dirigente scolastico, è presidente nazionale della DISAL, l'associazione dirigenti scolastici. Buongiorno Delfino, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Mi scuso per la voce quasi affonata. Se l'hai presa con qualche ragazzo, ho dovuto ritirare i cellulari. No. Ma direi sicuramente il tempo variabile, di qualche piccola maledizione, ma No. Perché? Dice che ha fatto arrabbiare troppi ragazzi e troppi studenti. No. Perché preside a questa idea? No, senta Delfino, noi stiamo parlando di smartphone, però l'abbiamo chiamata anche, se vuole ci dice la sua, per il tema vero che tiene banco sulle scuole, quello dei vaccini. Ieri la stampa giustamente lanciava l'allarme dei presidi, io li chiamo così, che dicono non siamo sceriffi a controllare, ma perché? Qual è il problema che si pone sulle vaccinazioni dei ragazzi? Il problema si pone principalmente nella fascia 0-6 anni, sì. Cioè nella scuola dell'infanzia o nei nidi, sia diciamo nelle scuole statali come nelle scuole paritarie. Ma no? C'è l'autocertificazione, no? Ho dovuto firmare anch'io per l'elementare, mio figlio. Ecco, sull'elementare il discorso si pone di meno, perché l'autocertificazione consente appunto di rinviare fino al mese di marzo, sì, dell'anno prossimo, no? La possibilità di... Produrre l'avvenuta vaccinazione o meno. Il problema è sui piccoli. E il problema qual è? Che nel dispositivo di legge è previsto che il genitore che non produce in tempo utile i documenti, il bambino non può fare entrare il bambino a scuola. Cioè la norma prevede il fatto della decadenza dall'iscrizione. Bene. Poi in realtà le norme sono uscite successivamente, cioè le cosiddette circolari applicative, prevedono appunto che il preside debba fare un motivato provvedimento di allontanamento dalla scuola. E voi dite non potete fare questo, non siamo sceriffi, è questo il senso? Ma diciamo che l'urgenza di questa legge, cioè questa legge ha una caratteristica di urgenza, per cui è stata emanata per ragioni sanitarie, di cui noi non siamo evidentemente venuti a conoscere le ragioni. E il problema è che la scuola viene caricata di un compito di controllo e quindi di applicazione automatica della legge, quando la scuola invece nasce esattamente come ambiente di inclusione, di accoglienza, di accettazione, lo so. Diciamo che qualcuno deve farla applicare. Immagino che umanamente sia anche un ruolo molto sgradevole in cui ci si trova. Ecco, lei ha usato il termine giusto, cioè la parola ruolo. Allora, in una situazione del genere si tratta di definire dei ruoli, no? Perché ci sono altri soggetti. Qual è l'altra soluzione? I carabinieri a verificare? Cioè, perché se bisogna fare un controllo, capisce, cioè, anche lei Delfino, che è una questione di tutela, la questione di vaccinazione, certo, abbiamo parlato, di tutela della salute pubblica, no? Qualcuno dovrà controllare, ecco, non lo so. Se vuole veniamo io e Veronica Gentili, facciamo tutte le scuole d'Italia. Andiamo noi. Però. Allora, nessun preside, tantomeno il sottoscritto, non vuole, cioè, si pone dalla parte di non voler applicare la legge, no? La legge va applicata ed è corretta, ha un carattere d'urgenza. Il problema è definire i ruoli, cioè di chi debba effettuare questi controlli e chi a questo punto secondo lei chi applicare. Secondo lei chi? Ci sono anche altri soggetti, per esempio le aziende sanitarie locali, Alleanza. Ci sono i comuni, ci sono teoricamente anche le forze dell'ordine. Cioè lei dice delle figure esterne che non siano implicate poi nel rapporto con gli studenti, con le famiglie, capito, che siano però, più neutre. Scusate, i carabinieri rispetto ai presidi mi sembra che si militarizzi un po' più la scuola rispetto a... cioè non si tranquillizzano i ragazzi. Lei dice anche le forze dell'ordine. Cioè, no, era un esempio. Era per dire che in questo momento di applicazione della legge sui vaccini, le scuole sono chiamate a un'azione di controllo. No. Allora il controllo lo dovrebbero effettuare eventualmente anche altri soggetti. Esistesse per esempio, cosa che non esiste, una banca dati sulle vaccinazioni, allora in prospettiva si tratta di creare queste banche dati in modo tale che si possa fare questo controllo quasi in maniera automatica. Quindi le scuole in realtà che hanno un compito istituzionale di accoglienza, di formazione, sì, non devono fare questo, va bene. Sono chiamate a fare invece ad assumere un ruolo di controllo. Ma voi vi siete trovati spesso a scontrarvi proprio con le famiglie da quando è iniziato adesso l'anno scolastico? Cioè scontri di verbi? Ecco, credo che forse il termine è un po' esagerato. Sicuramente ci sono famiglie o che non hanno saputo dell'applicazione della legge e stanno correndo ai ripari. Qualche famiglia si è posta anche in termini pregiudiziali rispetto all'iniziativa. E lo sappiamo, ecco, giustamente. In generale ho notizia del fatto che esistono singole famiglie o gruppi di famiglie che hanno diffidato anche i presidi, alcuni presidi, all'applicazione della norma. In qualche caso ci sono stati invece dei momenti di colloquio, di informazione, di formazione reciproca. Sì, c'è stata anche, credo, una preside a Milano che ha convinto, ha detto parlando, perché poi molto spesso basta mettersi lì seduti e parlare. Parlando ho convinto non so quante persone che erano scettiche. Sì, 500 persone, credo, moltissime. E hanno fatto cambiare idea, a dire no, ma sì, ha ragione, è giusto vaccinare. Spiegando. In ogni caso, noi Ezio Delfino dobbiamo dare le informazioni sul traffico, la ringraziamo. Però ha posto questa problematica. Insomma, i presidi non devono essere il terminale ultimo di controllo, perché sono quelli che devono... Una domanda te la pongo io, ma secondo te davvero ci sono ancora famiglie che sono arrivate lì non sapendo nulla della questione dei vaccini, nonostante il bombardamento mediatico, per cui anche volendo il vaccino entra nel frigorifero? Esatto. Come si può essere arrivati a scuola non sapendo niente? Ma questo, vedi, fa capire che poi ci sono persone che proprio non leggono i giornali, non guardano la TV, non ascoltano la radio, che ecco, che è molto vergogna! Grave. E che vivono in un eremo anche. Perché... Vivono in un eremo e soprattutto non hanno la radio su Radio 24. Vergogna! Fermatelo, adesso il traffico si calma, gli do il sedativo. E vai col traffico! Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta i funamboli. Allora, eccoci qua, 9:48 minuti, vedo già qua Leonardo Manera che si aggira il nostro funambolo, tra poco il suo momento. Sentiamo prima Benedetta da Firenze, buongiorno Benedetta. Sì, buongiorno, io volevo tornare a parlare dei ragazzi e smartphone. E volevo dire che sono un po' delusa dalla trasmissione di stamani, perché vi ascolto da tanto tempo e periodicamente vengono fatte queste trasmissioni inanellando una serie di banalità. Eviterei per esempio, parlando di questi argomenti, di chiamare persone che abbiano interessi di tipo economico commerciale, perché se si parla di obesità e mi chiamate il responsabile di qualche azienda dolciaria, mica vende smartphone, no, l'ospite però, che abbiamo chiamato, però guadagna su quello, no, vive di quello, va bene, ma no, si fatto, sente... ma no, ha un'impresa, no, ma veramente lui digitale. Si occupa di tutt'altro. Se parlo di obesità infantile, che in Italia è un altro problema che c'è, e lei mi chiama responsabile di un'azienda, non voglio fare nomi, chiaramente quello dirà bisogna mangiare con intelligenza. Benedetta, in modo mi perdoni, le abbiamo spiegato che ha un'impresa ma non vende smartphone, però se lei vuole continuare a dire così, che è come l'obesità il paragone, prego, cioè vada avanti, prego. Ho un figlio al liceo, va bene, Gli insegnanti, non solo della sua sezione, ma di tutte le altre sezioni, a un liceo scientifico con anche liceo classico annesso, non danno più versioni di greco e di latino da fare a casa, perché le vengono copiano. Tutte copiate tramite internet. Quindi le esercitazioni si fanno soltanto in classe. Io vi dico solo questo. Per cui ma Benedetta, questo che considerazione le fa fare? Questo mi fa fare una considerazione, che è uno strumento che invece che apportare, diciamo, delle conoscenze in più, le toglie. Quanto all'insegnante tanto ingenuo che ha telefonato da Palermo di inglese, l'uso del vocabolario così bello, eccetera, qualsiasi esperto di didattica, di problemi cognitivi, vi dirà che non è la stessa cosa andare a cercare una parola, un verbo sul vocabolario cartaceo rispetto a cercarlo, a digitarlo su. Va bene, lei è molto molto affezionata a un mondo che però non c'è più, ma che non vuol dire che sia meglio che non ci sia più, però non c'è più. Quindi bisogna fare i conti con questo. Aspetta però, perché è il momento. Ma eccolo qui, il nostro funambolo del giorno. Ben ritrovato, caro Leonardo Manera. Ma buongiorno. Che del giorno, di tutti i giorni, ci tocca tutti i giorni. Io arrivo un po' più tardi perché dormo un po' di più, ma cerco di portare il mio contributo. E questa settimana, oggi, mi ha colpito in realtà questo articolo di Libero di qualche giorno fa. Il titolo è "Se a divorziare sono i gay, sembra la favola di Cenerentola", perché l'avrete letto anche voi. Lo scrittore Rossi Marcelli si separa dal compagno storico. È vero. Io pensavo che le unioni omosessuali ormai fossero le uniche dove c'era l'amore vero, e invece pare di no. Nemmeno lì. Tra l'altro so che anche un ascoltatore della radio, insomma, si è preso una... No? Ti volevo dire, ma ieri ho letto messaggi, si è preso una scuffia brutta questo Michele ragazzo. Michele da Firenze, che salutiamo, vuole cenare con te. Ha detto proprio, è partito con la voce sexy, poi ha detto è proprio un bel maschiotto, l'ho visto. Lo ringrazio tantissimo, Michele. E allora io, prima di prendere una decisione, sono andato un po' in giro per strada a sentire che cosa ne pensano le persone delle coppie gay, dei matrimoni gay, delle unioni. Vediamo cosa... Finalmente un po' di inchiesta vera. Sì, seria. Fatta per strada. Sentiamo. Cosa pensa del matrimonio tra omosessuali? Proprio matrimonio ufficiale? Sì. Direi di sì. Tanto sono assieme. Lei ha mai avuto tentazioni omosessuali? No. Esperienza? No. Lei è mai capitato? No. Una schifezza. Perché? Perché è una schifezza. Perché il sesso è fatto per la figa e per il pirla. Può essere un po' più esplicito? No, è più chiaro di così. Ma lei è favorevole o contrario? Contrario. Io contrario anche. Perché? La coppia è un maschio e una donna. La coppia è? Un maschio e una donna. Lei è eterosessuale? No, io sono giusta. Amo un uomo. Lei è? È etero. In poche parole, nel principio non era così. Ma uomo è uomo, ma dove siamo ridotti, dai? È una burocrazia, non va bene, uomini, donne che adottano pure bambine, ma dove siamo? In che futuro siamo? In che generazione siamo? Questa è una generazione malvagia, diabolica, satanica, ma siamo scherzando? Noi umani stiamo rovinando l'umanità, l'uomo è l'uomo e la donna è la donna. Quindi due uomini o due donne insieme? Non va bene, escluso completamente. Questi sono negatività, spiriti che entrano nella psicologia e anche nella sessualità. Lei è favorevole o contrario al matrimonio tra omosessuali? Per me facciano quello che vuoi, basta che non rompano le palle a me, basta che non mi rompano le palle. Lei è eterosessuale? Io ero eterosessuale, adesso non mi interessa più. Ma hai avuto qualche tentazione omosessuale? Io penso che ognuno di noi c'è sempre qualche tentazione di qualcosa. La coppia è un maschio e una donna. E è tutta una burocrazia, la coppia è uomo e donna. Il maligno, il malvagio. Tutta una burocrazia, è fantastico. Tra l'altro sono tutte cose vere, sono persone che io ho incontrato veramente per strada. Sai che io non ci credevo, c'era uno dei vari che pensavo fossi tu. No, tutte cose vere, quindi Michele, visto che ci sono questi giudizi così negativi, ripensiamoci. Satanico. Allora, satanico, il maligno. Michele ha diabolico. Paura, Michele ha paura e respinge i suoi sentimenti, ma tu non lasciarti intimidire. In ogni caso, alla prossima inchiesta di Leonardo Manera, il nostro funambolo. Grazie Leonardo. Vabbè, comunque siamo quasi al giornale radio, tra un minuto, cara Veronica. È quasi giunta l'ora, ma tu sei giusto? Vabbè, guarda, non lo so, chiediamo cosa ne pensa di questo tema. No, scherziamo, a Barbara da Piacenza che ci ha chiamato per tutt'altro tema. Barbara, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamavo per lo smartphone. Intanto non sono d'accordo che riduca la conoscenza, ma secondo me crea un valore aggiunto se gestito e appunto guidato nella maniera giusta. Ma soprattutto io volevo dire un'altra cosa, perché da genitore di un ragazzino di 12 anni credo che vabbè, è stato detto tante volte, però secondo me è da ribadire che il genitore ha una responsabilità precisa, nel senso che se la scuola vieta l'uso del cellulare, ma cavoli, potremmo un po' essere autoritari ogni tanto e dire no, non lo porti, controllo se lo porti, se sei un po' sovversivo. Questo Barbara, sì, insomma, entra anche nel ruolo dei genitori, questi smidollati, mi ci metto per primo. Quindi se dovessero decidere di farglieli portare a scuola, vedi, ci sono genitori che non sarebbero d'accordo e dicono no. Per esempio la scuola da mia figlia nel momento in cui entra a scuola deve tenerlo spento, che non vuol dire silenzioso, spento. Io gli ho detto, ma cosa lo porti a fare se tutto il tempo deve stare perché spento? Perché l'ansia, deve averlo lì, appena esce ce l'ha lì vicino. Ma quando esce c'è uno che la prende, glielo porta se proprio vuole, no? Ma questo non è detto. Comunque uno degli aspetti altri è anche la paura dei genitori di non avere i figli reperibili, che anche quello non è da sottovalutare, soprattutto in quest'epoca di grande insicurezza. Ma la scuola ansia, ti trova se ti vuole, se vabbè, dai. Insomma, dobbiamo andare a giornale radio. Il tema è dibattuto. Guarda che non è da sottovalutare. Continuatelo su Facebook, le nostre pagine Funamboli, il tema della scuola. A dopo. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer. State ascoltando un programma offerto da... Carserver.it. Scopri il noleggio a lungo termine che ci mette la faccia. I Funamboli. Cara Veronica, siamo qui alla seconda ora dei Funamboli, 17 minuti. Allora, noi adesso ci occuperemo di tante tematiche, però c'è un grande però, perché come abbiamo sentito nel GR24 arrivano delle notizie da Londra che sono un po' allarmanti. Si parla, in alcuni casi, alcuni dicono di una esplosione in un secchio, un grande secchio bianco all'interno di una stazione della metropolitana. Ancora poco chiare sono molto le notizie. Poco chiare. I pompieri parlano di persone ferite al volto per una sorta di esplosione, un piccolo incendio scaturito da un bidone un bianco. Un secchio di plastica bianca, sembra. Ci sono i carabinieri, ci sono i pompieri, ovviamente, sulla banchina di Parsons Green, questa è la zona, due autobotti sul posto. Devo dire una cosa, la BBC, che ovviamente è sempre molto informata, al momento non ha ancora dato la notizia. Pare che siano state sospese per ora delle corse all'interno della metropolitana tra Earl's Court e Wimbledon. È chiaro, cioè il timore quando si parla di queste cose è inutile negarlo, si teme un attentato, sempre, visto certo. Che non sarebbe il prima. Secondo Sky News i feriti nella metro di Londra hanno bruciature sul volto, quindi si parla di questo possibile incendio, di questo possibile... qualcuno parla anche di esplosione in questo secchio bianco. Staremo a vedere, come sempre tradizione di Radio 24, state con noi perché vi diamo gli aggiornamenti. Purtroppo per ora si sa veramente molto molto poco, nulla più di questo. Vediamo gli aggiornamenti minuto per minuto se non ci abbandonate. Però intanto noi continuiamo perché è il momento alle 10:09 minuti di chi? La funambola del giorno. E oggi, cara Veronica, è una funambola che a me incuriosisce tantissimo. Oggi abbiamo una storia veramente interessante. Sì, una storia interessante che è quella di Federica Trivelli, che è con noi. Federica, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie a tutti e grazie per la bellissima presentazione. Da più funambola di te, ora ci racconterai proprio un percorso di equilibrio, sospensioni, scelte, insomma. Scelte soprattutto, da Vigone in provincia di Torino, ha fatto una scelta, posso dirla così, ha deciso di vivere certo, con i maiali? Certo. Vivere con i maiali e per i maiali. Cioè, anteponendoli diciamo a qualsiasi vivere cosa. Per la causa. Vivere per la causa, Veronica, è più, diciamo, ben descritto. Raccontaci, qual è la causa? La causa degli animali, i diritti degli animali e della salvaguardia dell'ambiente. Un viaggio negli anni 90 in America completamente cambiato la mia vita come attivista. Sono entrata in contatto con degli attivisti locali e abbiamo visitato macelli e allevamenti, quindi industria della carne e del latte. Sì. Il nostro compito era quello di filmare e fotografare gli errori all'interno di quelle realtà e portare consapevolezza nel mondo, quindi portare messaggio, ecco. E che cosa, e questo, questo viaggio, questo viaggio, che cosa è successo? Cioè, c'è stato... E dunque, qualcosa quella notte non andò secondo i piani. Noi quella notte dovevamo filmare e fotografare all'interno di un capannone, e mi fermai, e rimasi colpita dalla grandezza, dalla maestosità di una scrofa contenuta all'interno di una gabbia. Non poteva muoversi. Una scrofa. Era come, scusa? Una scrofa, sì. Contenuta all'interno di una gabbia ristrettissima, alla fine della sua carriera, come direbbero gli allevatori, quindi prossima alla macellazione. Mi mise una mano sulla schiena, lei si girò, in quel momento fu un incontro di sguardi, di anime, mi pregò di Ma cosa intendi per incontro di anime? No, perché cioè, Federica, c'è stata... perdonaci, cioè io, noi ti abbiamo chiamato per questo, è straordinario, uno sguardo e un incontro di sguardi e anime tra te e una scrofa. Sembra quasi l'inizio di un rapporto d'amore. Quando guardi un animale, voi ridete, ma no. Da ridere. Quando guardi ridere. Un animale negli occhi che porta dentro tutto il suo dolore e non può comunicarlo, ma tu riesci a vederlo e a sentirlo all'interno del suo sguardo, è un incontro di anime, ecco che cos'è. E da quel momento, insomma, la decisione è quella di... Da quel momento di dedicare la tua vita a questo. A salvare i suoi piccoli. Sì. Le abbiamo fatto una promessa che la notte dopo saremmo ritornati a salvarla. Purtroppo la notte dopo non c'era più. L'avevano portata via, l'avevano macellata. Però da lì c'è stata, una scelta di vita. Cioè quella di vivere adesso con quanti maiali? È una scelta di vita alla causa. Occuparsi di quegli animali che sono considerati nella catena alimentare gli ultimi degli ultimi, portare un messaggio nel mondo e far capire che esiste un'alternativa a un massacro ingiustificato e dare un messaggio senza imposizione. Sì. Federica, ma come mai proprio con i maiali? Cioè rispetto agli altri animali, perché appunto dicevi un percorso con gli animali, tanti animali, che cosa è scattato proprio con i maiali nello specifico? Perché sono gli ultimi degli ultimi all'interno di una catena alimentare, sono quelli che sono i più umiliati, i più derisi. Poi, quando parli di animali, va bene, d'accordo, cane, gatto, ma se parli di cavalli, conigli, caprette, bene o male la gente scatta la sensibilità. Se parli di maiali, comunque, la gente rimane, diciamo, più... tra virgolette schifata. È un animale che desta molta meno sensibilità, invece sono animali meravigliosi e molto intelligenti. C'è un momento occuparmi proprio di loro, ovvero gli ultimi degli ultimi. La parabola inversa della fattoria degli animali, chiaro, in cui invece i maiali erano più simili all'uomo, quindi. C'è un momento, credo, della vita, una sorta di svolta in cui c'era un fidanzato, comunque un compagno, che a un certo punto ha detto però correggici se sbagliamo, o me o i maiali. Nel senso che la vita è fatta di scelte. E tu hai scelto i maiali. E le scelte sono fatte di sacrifici. I sacrifici sono necessari per arrivare agli obiettivi. Ci sono stati, certo, dei fidanzati. Ci fu quello del 2009, a cui sono particolarmente grata, perché mi aiutò a creare quello che voi vedete oggi sulla pagina Facebook, La Piccola Fattoria degli Animali. Ah, ecco, non l'abbiamo detto, giusto? Attualmente, esatto, La Piccola Fattoria degli Animali. E un giorno lui mi chiese, poiché non se la sentì più di andare avanti, di scegliere o lui la missione. Io decisi la missione. È una scelta a cui noi attivisti siamo molto messi di fronte. La vita è fatta di scelte. Federica, posso fare una domanda molto, molto secca? Non sono Cruciani, eh? Lo conosci di Cruciani? Giuseppe Cruciani? No, assolutamente no. Non so minimamente chi sia. Strano. Non è rilevante. Non è rilevante, no. Però faccio una domanda proprio brutale. Ma non c'è un po' di fanatismo in questo approccio? Di un allevamento... E forse questa domanda non me la faresti. No, ma parlare di missione, di causa, di anime. Cioè, gli animali io li adoro, nel senso anch'io. Però ecco, mi sento male se mangio un salame. Ci sono molte persone che si svegliano la mattina e non sanno per cosa lottare e vanno a dormire e non sanno per cosa vivere. Chi crede in un ideale che sia o per gli animali o l'ambiente o qualunque cosa sia, c'è così tanto da fare nel sociale. Invece di parlare di fanatismo, di parole che hanno ben poco senso, io inviterei invece la gente a darsi da fare e a impegnarsi per tante cose, sai, sarebbe un mondo migliore, per le persone. Ci sono tantissime persone da aiutare, bambini, tantissime persone meravigliose che hanno bisogno di aiuto. Noi lo stiamo facendo per gli animali perché sentiamo questa vocazione. Certo. C'è un pianeta meraviglioso da salvare. Tiriamoci sulle maniche e diamoci da fare, senza parole. Vabbè, insomma, che hanno poco senso. Quindi è una scelta di vita di cui tu sei estremamente appagata, cioè le rinunce, le storie che hai abbandonato, il percorso, cioè tutto quello che hai fatto in funzione di questa causa, per te è stata una soddisfazione col senno di poi. Assolutamente, bisogna essere contenti della propria vita, bisogna essere così, è fondamentale lavorare sodo, crederci, andare avanti, essere determinati e lavorare in squadra, e questo è il succo della vita, amare la vita è il bene più prezioso che abbiamo. Va bene, è la storia di Federica Trivelli, la nostra funambola del giorno, insomma, da Vigone, Torino, in questo, com'è la cosa Facebook? La piccola fattoria degli animali. La piccola fattoria degli animali, supportateci, aiutateci, il grande sogno è di costruire un enorme santuario dedicato a questi meravigliosi animali. Santuario, che vogliono darsi da fare, e venga, l'ho raggiunto, siete tutti ben accolti. In che senso santuario? Capisci Federico, perché Federica, perché dico fanatismo, forse esagerato, perché le parole sono importanti, adesso addirittura santuario mi sembra un po' esagerato. Conosci, no? La parola santuario, forse non la conosci, non la e conosco. Forse non parleresti di fanatismo. Vai un attimo su internet e capisci cosa significa la parola santuario. Sono su internet. Dei posti meravigliosi che ti invito a verificare, non parleresti in questo modo. Aspetta, sono su Google, luogo sacro, luogo di culto, santuario, edificio sacro. È un luogo considerato sacro. Questo sto leggendo Wikipedia, va bene Wikipedia. Certo. Un luogo considerato sacro per la pace, dove si incontrano gli però animali. Fammela leggere, umani, perché la sto leggendo agli ascoltatori, facciamo la legge. Un santuario, luogo considerato sacro per la manifestazione del divino, per la presenza di sepolture o reliquie, o perché è connesso a eventi considerati soprannaturali. Ecco, col maiale io non ci vedo molto collegamento. Vabbè, dai, non facciamo dell'ironia che ma in questo momento Wikipedia, serve a poco. Wikipedia, guarda Wikipedia. Santuari per gli animali, facciamo le cose col buon senso, che voi dovete averne quando avete il compito di dare dei messaggi in radio. Santuario per gli animali. Santuario per gli animali, guardate i grossi santuari che ci sono in America, sono dei posti meravigliosi, ce ne sono anche qua in Italia. Sì. Dove ci sono attivisti che c'è cioè una rete di santuari per gli animali liberi. E allora, allora dovevi dire santuario per gli animali, santuario è un'altra cosa. Comunque, insomma, grazie Federica Trivelli, la nostra funambolissima del giorno. Andiamo al traffico. A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin nel banco freezer. Vi presenta i funamboli. Allora, 10-19 minuti, non farò ironie sul fatto che mi viene voglia di mangiare un panino al salame, in questo momento non lo farò. Sei stato molto molesto, hai quasi litigato con la signorina e con la nostra funambola, il santuario. Che invece ci spiegava il santuario degli animali. Degli animali. Allora, le 10-20 minuti, sai cara Veronica che in Italia si è riusciti a polemizzare, è incredibile perché abbiamo una velina. Anche questa è veramente una storia da funamboli, perché tutti coloro che si muovono anche nel mondo dello spettacolo, no? Ed hanno però una caratteristica che da un lato può essere una caratteristica attrattiva e dall'altro diventa automaticamente respingente. Spieghiamolo però, perché sennò gli ascoltatori non sanno. Nello specifico essere neri, poi si può venire dal Sud America, si può venire da vari paesi e vivere un'esperienza di questo tipo essendo alla ribalta, noto, balzare alle cronache per varie ragioni. Infatti noi oggi abbiamo con noi un personaggio che in quest'ottica è stata molto significativa. Qual è il motivo per cui l'abbiamo chiamato? Antonio Ricci a Striscia Notizia ha una velina, li conoscete le veline, che ha la pelle di colore nera. La velina bionda e nera. Bionda e nera sulla rete. Ovviamente Antonio Ricci secondo me ha fatto una mossa di marketing. Grandissima operazione di marketing. E la cosa è riuscita perché chiaramente ci sono state delle sollevazioni popolari, che le chiamiamo così anche se sono fenomeni sempre molto relativi, con commenti xenofobi, persone che hanno iniziato a dire perché allora le veline di casa nostra allora restano senza lavoro, le nostre veline bionde, allora mamma che mia. Significa che celebrare l'estetica italiana invece di scegliere le nostre donne, prendere delle persone che hanno delle fattezze diverse, e da lì si sono scatenate queste polemiche. Allora, insieme al direttore di oggi, Umberto Brindani, che salutiamo. Umberto, buongiorno, ciao. Ciao, buongiorno, dobbiamo... carissimi. Ecco, buongiorno Umberto. C'è anche, la ringraziamo e la salutiamo per essere con noi, Danny Mendes, che forse ricordate, modella, attrice, naturalizzata italiana, ma di origine dominicana, è stata la prima e La prima e unica Miss Italia, Miss Italia di colore. Danny Mendes, buongiorno. Grazie. Buongiorno ragazzi, grazie dell'invito. Era il 96, era il 96. Grazie a te. Nel 1996, ebbene sì, che fece scalpore, perché insomma, rispetto a come stiamo combinati adesso, che sono passati più di 20 anni e stiamo... ancora... Fa ancora scalpore la velina. Sentito Mendes, fa ancora scalpore la velina di colore. Sì, ancora, siamo alle solite. 20 anni, devo dire che pensavo di aver dato uno spiraglio alle nuove, in qualche maniera aperto un po' di la strada alle nuove generazioni, ma mi pare che ancora la cosa sia un po' retro. Però devo dire che soprattutto è stato molto... per la scelta della velina, io credo che Antonio Ricci è un grandissimo professionista, quindi non è che abbia non l'ha scelta a caso del colore, ma anche per la professionalità. Certo. Però mi dispiace ancora, ragazzi, questo fatto di etichettare ancora e stereotipare insomma, in questo caso delle ragazze, delle bellezze, e quindi ancora giudicare il loro colore della pelle. Ma la tua esperienza personale com'è stata invece, Danny? Cioè, quando sei stata tu eletta Miss Italia? È stata molto forte, devo dire, all'inizio, perché poi non avevo anche la proprietà del linguaggio per difendermi, però certo, tutto questo mi è servito proprio per essere, perché questi casi poi alla fine comunque servono, nel bene, nel male, nel grande, nel piccolo, perché comunque ti fanno ragionare che comunque l'Italia non è un paese assolutamente razzista, non è assolutamente così. Tu vuoi dipingere un qualcosa per 2 o 3 cazzate, scusate il termine, scritto sui social, non è così, cioè, non è così. Io nella mia esperienza ho avuto modo così. Anch'io penso così, cioè non siamo un paese razzista. Ci sono un po' dei cretini. Ci sono 2 o 3 deficienti, scusate, che ci sono sempre, ma ignoranti. Cioè io credo che ci sia una lentezza all'accettare cambiamenti, che è un po' diverso da essere razzista. Io abito adesso negli Stati Uniti e lì, diciamo, la parola razzismo ha una storia, insomma, molto più insomma, pesante e profonda. Sì. Quindi per me queste polemiche, io dico, allora quando ci sarà, come c'è stato nel 96 il discorso della canzoncina del Papa Nero, cosa accadrà certo, allora? Il Papa Nero? La citavamo. Dopo Miss Italia avere un Papa Nero. Sentiamo, che ne pensi, direttore, di questa polemica? Insomma, ci alimentiamo di polemiche, forse Ricci ha fatto anche una scelta per alimentare a sua volta queste polemiche. Che dici, caro Umberto? Ricci fa bene il suo mestiere. Io però dico una cosa, 2 cose. Intanto dovremmo cominciare a non dare spazio a questi cosiddetti haters, odiatori, questi imbecilli, letteralmente imbecilli, perché qui magari 4 post su Facebook o su Instagram, poi... Sì, sembra che rappresentino la profondità di un paese. Sì, no. In parte è colpa nostra che diamo spazio a queste persone che prima dei social avrebbero sparato le loro stupidaggini al bar o le avrebbero scritte sul muro di un bagno e adesso finiscono sulle prime pagine e siamo qui a parlarne. Questa è la prima cosa da dire. La seconda è che invece io sono molto preoccupato, perché sono passati 21 anni dall'elezione di Danny alla Miss Italia e ancora se ne discute, e le cose sono peggiorate. No, perché effettivamente, direttore, un discorso del genere, adesso Danny Mendes vive in America, ma un approccio del genere, anche solo una persona o 5, qua ne abbiamo di più, che potessero fare quel discorso sulla velina nera, ma c'è secondo te in Francia, in Gran Bretagna, in America? Io credo di no. Guarda, è tutto legato alla questione dei migranti, senso che la questione dei migranti negli ultimi 2 anni, che adesso Minniti tra le polemiche a sua volta sta apparentemente risolvendo, ha scatenato nella popolazione italiana un ingiustificato terrore di tutto, dello di straniero, tutto quello no? Che sì. E devo dirti, Alessandro e Veronica, che a me quello che colpisce più di tutto è che sono le nostre responsabilità di, come categorie di giornalisti. Stamattina ci sono due giornali, cioè, voglio dire, c'è La Verità che titola... Sì. Il governo insiste, vuole dare la cittadinanza agli stupratori. Sì. Questo parlando di Ius Soli, ma vi rendete conto di cosa, di che titolo è? Sì, sì, è di una gravità. È libero al governo bingo, meglio bingo bongo. Ma di cosa stiamo parlando? Ma diamoci una calmata, una regolata. No, che poi in realtà si tende a sottovalutare il fatto che alcuni titoli di questo tipo non fanno che avallare quelle che poi sono le esternazioni ancor più xenofobe, ancor più violente da parte di tanta altra gente che trova in questo un giustificativo. Ma assolutamente così. Guarda, io qualche mesetto fa ho pubblicato una lettera sull'Oggi di un signore che se la prendeva con gli immigrati e io ho definito la sua lettera razzista rispondendogli sul giornale. Non lui, sono stato, come dire, cauto, no? Ho detto, non è lei è ma razzista, i toni, ma la i toni, sua lettera è razzista. Dire, certo. Da quel momento non faccio altro che ricevere lettere, devo dire, molto anche, come dire, di persone, sì, come dire, che sanno scrivere, eccetera, che si dichiarano d'accordo con quel signore. C'è un razzismo strisciante, sì, quindi c'è, che io quindi ho chiamato c'è anche razzismo inconsapevole, nel senso che molti pensano di non essere razzisti, ma in realtà si comportano al nodo lo sono. Però Danny Mendez, ma di quella vicenda e di quelle polemiche di tanti anni fa, cosa è rimasto? In realtà le ha fatto piacere vincere Miss Italia? No. Guarda, mi è fatto molto piacere, perché senza quelle polemiche, appunto, io credo che sia stato un pugno proprio per, insomma, proprio per in qualche maniera riflettere per quello. Beh, che fu un gesto molto simbolico. Un cambiamento reale che c'è comunque in Italia, cioè bisogna capire anche la realtà di quello che si sta vivendo in Italia in questi ultimi 10 anni, cioè io sono stata nel 96, adesso io credo che si faccia parecchia confusione tra... In questo caso si parla di bellezza, poi si parla di immigrazione, poi si parla di usolis, quindi sono un po' tutte cose un po' diverse, quindi qua non bisogna amalgamare tutte le cose insieme. In Italia invece si mischia tutto in Italia. Che purtroppo è invece quello che sta succedendo. E soprattutto, scusate, fatemelo dire, io non tanto per il giornale, che sicuramente a volte amplificano la notizia, ma io mi chiedo, perché io ho una figlia, avuto l'anno scorso, come a scuola, cioè le scuole italiane, come fanno a quello che stiamo parlando noi adesso, come fanno a parlargli alle nuove generazioni, degli italiani, non italiani, ma degli italiani della nuova generazione. Questa è la mia vera preoccupazione, perché è da lì, diciamo, che parte tutto il seme di come poi parlare, di come poi vedere questi nuovi italiani che ci sono e sono reali al mondo. Quindi io andrei proprio a mi farei un viaggio nelle scuole, in queste scuole miste, dove ci siano questi italiani, come vengono affrontati piccoli discorsi come questi, perché sicuramente ci sono. Ma io credo che a livello sì, ma io credo che a livello, poi io ripeto, l'ho detto prima, mia figlia va in una scuola con molti sono stranieri o comunque naturalizzati, e credo che a livello di bambini e di generazioni di quel livello lì non ci sia tanti problemi. I problemi sono più ma uno, questa è una cosa nostri, saggia che diceva nostri ieri anche Amir Issa, il rapper che abbiamo ospitato, cioè perché è come se questa fosse una fase di transizione, per i bambini perché è normale, tutti più piccoli, è anche normale. I cosiddetti nativi digitali dello smartphone sono cresciuti già in una cultura mista in cui hanno compagni di scuola. In realtà le resistenze maggiori, e questo lo dicevano anche i sondaggi dell'altro giorno dell'istituto Demos, la maggiore resistenza viene dalle generazioni più anziane. Non lo so, Brindani, quelli che scrivono le lettere, si sa che età avevano? Se sono hai assolutamente ragione, cioè i bambini sono in realtà la nostra speranza, perché anche mio figlio, cioè tutti quelli che hanno tra i 4 e i 10, 12 anni frequentano un mondo che è già aperto, no? Certo. E saranno i bambini a insegnare ai genitori. Questa è l'unica speranza, perché non possiamo sperare che da un giorno all'altro chi ha 40, 50, 60 anni cambi idea. Quindi io Io sono invece ottimista su questo, a differenza di quello che dice Danny, perché io penso che le scuole saranno la cosa che ci salverà. Ma anche perché, Umberto, poi c'è un dato di realtà, che la contaminazione di fatto è già avvenuta, quindi poi al di là di tutte le speculazioni che noi possiamo fare su di essa, nelle scuole loro si incontrano, nei parchi si incontrano, e quindi poi va avanti a prescindere da noi e da quello che vogliamo dirci, certo, no? Esattamente così. Io però vorrei capire da Danny Mendez cosa fa adesso. Tutti siamo un po' curiosi, vive a Los Angeles, questo l'abbiamo capito. È mamma? No, guarda, mi sto prendendo anche delle piccole rivincite. Ho appena finito di girare un film con John Travolta e diciamo, poi ci tenevo a dire, perché io quando dico italiana dominicana all'estero, è un vanto, è un arricchimento. Per esempio, sono stata invitata l'anno scorso a questo festival molto importante, prima degli Oscar, che viene fatto a Los Angeles, come madrina italiana dominicana, ed è stato per me un grandissimo onore, perché soprattutto quando c'è stato il periodo del black in Hollywood, che non sì, tutte le polemiche, insomma, certo, vengono raccontate storie, e loro hanno visto proprio come un'apertura, perché io credo che l'Italia avanti veramente su tante cose e su questo tipo di argomenti. Però ancora mi dispiace oggi che ci siano queste stupidità. Io sono molto propositiva, quindi a queste ragazze, Miss o Veline, dico: bisogna andare avanti e anzi prendere proprio spunto di questi fatti che accadono come un'opportunità, come è stata per Danny Mendez. Anzi, che siano benzina per lottare in questa direzione. Però prima di salutarvi e andare in pubblicità, vorrei Umberto Brindani, tra l'altro il numero di oggi lo trovate in edicola, noi ti abbiamo chiamato ieri anche perché ponete tutta la questione, vi fate la domanda sulla questione delle sfilate, le donne, la magrezza anche delle donne, la taglia delle donne, è un tema, un altro tema molto tema ricorrente. È un tema ricorrente. Umberto, devi no? sapere che Alessandro è molto preoccupato perché ha paura di non poter più sfilare in passerella adesso che le 38 sono a rischio, quindi è da ieri che è molto teso. Vuoi dirmi, Alessandro, che non sei dimagrito durante le vacanze? Che in realtà il tema è talmente serio che, cioè, ma se uno vede le foto effettivamente che pubblicate anche voi di queste modelle, ma come si può associare all'immagine della salute? Esulano le foto, da qualunque. Ah, ma non solo la salute, ma anche la bellezza, che talvolta sfocia nel parossismo. Vabbè, però, sai, la bellezza, perché ognuno ha i suoi canoni. Uno può amare una bellezza molto magra, molto esile, ma lì siamo proprio al confine quasi con la malattia, cioè sono delle immagini insalubri. È questo, Umberto. Ma adesso ci sono questi due grandi gruppi internazionali di moda che hanno messo al bando le modelle super magre, quindi ci si aspetta che venendo, come dire, da questi esempi importanti, anche le case di moda, come posso dire, medie o minori, seguono questa cosa. È una questione di cui si parla da anni. Tanto, sì. E ogni anno, ogni paio d'anni, regolarmente viene fuori basta con le modelle magre, perché alimentano aspettative soprattutto nelle giovani generazioni e quindi anoressia e quant'altro. Però perché se ne parla da così tanto, Umberto, e poi non si riesce a fare uno step e realmente a cambiare immaginario, a bandire queste scelte estetiche? Ma questo, guarda, è davvero un mistero, perché io poi sinceramente penso che vedere queste ragazze così magre in passerella non so quanto possa poi, come dire, aprire, essere, come dire, pubblicitariamente efficace. D'accordo, certo, che le passerelle vengono fatte per gli addetti ai lavori, sì, e però certamente le pubblicità, devo dire, sono già diverse rispetto a quello che si vede. Sì, è vero. Però è impressionante. Le foto che pubblicate, davvero col titolo Basta Scheletri, sono molto, molto crude. Sul numero di oggi in edicola, se volete. Ringraziamo Umberto Brindani, direttore di oggi, e Danny Mendez, ex Miss Italia. Andiamo a sentire le borse, poi vi aggiorniamo su Londra, perché abbiamo detto c'è stato un episodio in una metropolitana. Tra poco. I funamboli. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Basta, è ora di smetterla. In questo tempo di grandi insicurezze, io voglio avere reperibile mio figlio e nessuno può vietarmelo. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do. Milan, ti invito nel nostro santuario. È un bel salumificio nel Montefeltro. Vieni, vieni, tieni la Veronica. Tutti a mangiare il salame, va bene, va bene. Ci sono santuari e santuari. Allora, alle 10.41 diamo un aggiornamento su Londra, perché abbiamo parlato prima, abbiamo sentito anche il giornale radio di questa è la BBC in sottofondo. Si parla nella stazione metropolitana Parsons Green di una esplosione. C'è chi parla di un palla di fuoco che ha avvolto un vagone della metropolitana e alcune persone ricoverate con ustioni sulla faccia e le gambe. Non si capisce molto di più. Ecco, guarda la BBC che fa le prime immagini. Voi non potete vederla, vedete, ma c'è un, proprio un, una specie un, di secchio, una specie un bidone di secchio bianco, sì, in fiamme. Non si capisce molto di più. È stato un attentato? È stato un incidente? È stato un attentato forse non riuscito fino in fondo? Non si capisce molto, neanche, non è ancora chiaro davvero. Non è ancora chiaro, però parzialmente interrotta la metropolitana di Londra. Noi vi teniamo costantemente aggiornati durante tutto il palinsesto di Radio 24, cara Veronica. Però sì. Alle 10.42 vogliamo reinvitare i nostri ascoltatori, perché è il momento della nostra rubrica, a raccontare quando hanno fatto i furbi. Dovete scriverci. Ma raccontatecelo davvero, però. Ah, certo. Scriveteci e diteci: abbiamo fatto i furbi in questa situazione, adesso siamo tremendamente pentiti, oppure no, pensiamo oppure di rifarlo domani. Però raccontatecelo. Scrivete al 349-238-6666 oppure funamboli@radio24.it, perché è il momento... Defurbizziamoci. No. Del defurbizziamoci. E allora salutiamo Cecilia, che ci ha chiamati per raccontarci cosa. Cecilia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io complimenti per la trasmissione nuova. Sì. Ho defurbizzato mio marito. Ah! Quindi hai già fatto tutto tu, noi interveniamo, sì, in ritardo. Cosa vuol, sì, dire hai defurbizzato tuo marito? Passacelo. No, no, non lo so, non voglio. Ecco, perché noi siamo argentini, sì, abbiamo fatto un viaggio in Argentina, eravamo in aereo, i primi tempi che in aereo non si poteva fumare. Mm-hmm. Ecco, lui è andato in bagno, mio marito, è uscito. È andato in bagno a fumare. Ecco, a fumare. Suonato l'allarme subito, antincendio, tutto. Non ha suonato, ma l'hostess, insomma, ha sentito il puzzo di sigaretta, guardava di qua e di là, è venuta nei nostri confronti, ha detto: ma voi sapete se ha fumato qualcuno, si sente puzza di sigaretta, e no? Tu, Cecilia, avrai coperto, chiaramente, avrai coperto tuo marito. No, Mio marito diceva no. E io non ce la facevo e con il dittino facevo sì, lui è stato lui. Ma come? Così hai fatto la spia immediatamente, come a scuola la maestra. No, perché io la sigaretta non mi piace, volevo che lui smettesse di fumare. Ma quindi hai detto: se lo sgrida la hostess è la volta che ci riusciamo a farlo smettere. Sì. Ma un po' di complicità coniugale tra moglie e marito, ma Cecilia. Invece vedi, vuoi un paese migliore, un paese defurbizzato? Quando ci sono le mogli che già di loro defurbizzano i mariti, ma cosa vuoi di più? Quindi adesso... Ma come l'ha presa? Come l'ha presa lui? Cioè, però mio marito era impietrito. Non se l'aspettava questa delazione della moglie. Avere il nemico in casa. Casa, sì. Però l'hostess era imbarazzatissima, perché non sapeva che fare, perché... uno accusava, l'altro era il colpevole. Ma poi poi ha ammesso tuo marito, ha detto sì, effettivamente. Sì, perché lei le ha detto: mi raccomando, che sia l'ultima volta. Ha detto sì. Anche perché la hostess avrà pensato: tanto adesso ci pensa la moglie a sgridarlo a dovere, no, quindi io meglio che me ne lavo le mani. Io vorrei sapere com'è andata la restante parte del viaggio. Quando la hostess se n'è andata, tuo ma marito... Come ti viene in mente il fatto? Quindi adesso io non lo so, noi cosa facciamo? Dobbiamo defurbizzare Cecilia o dobbiamo defurbizzare il marito? No, noi dovremmo mandare proprio una medaglia al valore a Cecilia, cioè che sta portando il verbo. Grande. Vedi, tu nel paese ti muovi insieme a noi defurbizzando, anche quando noi non lo sappiamo. Esatto. Vai in giro, tu smettila di sporcare, tu non buttare la cartaccia, tu non se fare no lo vado a dire a tutti. Ah sì, non mi piace quando buttano la carta per vedi? Terra. Certo. In spiaggia, no. Vabbè, no, allora sono quella che raccatta le cicche intorno all'ombrellone. Ci sono, vedi, in un paese di furbi abbiamo anche Cecilia, che infatti è argentina. Allora diciamo che la nostra Cecilia, ma con lei anche suo marito, è stata defurbizzata. Va bene, anche se lei è già data la patente, lei dovrebbe defurbizzare noi, anzi. Esatto. Dai, andiamo alle informazioni sul traffico, poi l'ultima parte di Funamboli. C'è Manera che qui si aggira, guardalo, e che torna. Guardalo come si scalda. Guardalo come gli sono cresciuti i capelli. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta i Funamboli. Al venerdì, pronti per il weekend. Oh, meno male, chissà se c'è bel tempo, questo non lo so. Speriamo. Ma tu che fai, mia cara sciocchina, questo weekend? Io ho una festa di bambini, sicuramente. E poi coetanei? No, nel senso, i miei figli devo portarli a una festa. E poi la domenica, non lo so, punterei a vedere una sana partita di calcio, per esempio. Ma io un'idea ce l'avrei, perché lo scorso fine settimana sono stato in un posto dove, ti dirò, mi sono proprio rilassata. Infatti è per questo che abbiamo reinvitato l'assessore. Perciò saluto tutti gli ascoltatori di Funambole. Salve. Sono il geometra Sebastiano, e sindaco anche che si occupa anche del turismo di questo piccolo paese che invito tutti a venire a visitare. Sono il sindaco di questa cittadina che si chiama Punta Minchia. Punta Minchia, dove io sono stata lo scorso fine settimana, che è la località ideale per passare un bello fine settimana senza stress, senza rilasso, perché non c'è il cinema, che alla fine esci deluso, vi è la frustrazione perché vedi l'attrice e tua moglie non è come le attrici, e poi non c'è il ristorante che ti viene la gastrite. A Punta Minchia non c'è una minchia. Ma scusi, ma c'era un ristorante l'altra volta? Non c'è finito, ha chiuso. Ha chiuso. È il luogo ideale per passare un bello fine settimana senza relasso. Milan, signora gentile, perché si arriva il venerdì sera, si va subito al bed and breakfast agriturismo da Pippo. Che è quello, Pippo, ma no, non si mangia più da Pippo. Si quindi mette nella camera che preferisci. Abbiamo le camere a tema, e per esempio c'è la camera no wifi per chi vuole staccarsi dalle cose tecnologiche. Ma c'è anche quella wifi, quindi. C'è poi l'altra che è connessione lenta. Vabbè, insomma, siamo a posto. Pippo, faccia qualcosa, però sì, chi vuole cose tecnologiche, ma diciamo con un rilassamento. Poi al venerdì sera fai una bella grigliata da Pippo. Ma che vedi che si mangia da Pippo? Pippo non è un ristorante. No, Pippo griglia tutto, cose di plastica, scatolame, pezzi di sedie. A Punta Minchia non c'è la discarica, e allora le persone portano tutto da Pippo, che griglia tutto, poi arriva a assaggiare. Buono. Sabato si fa la visita a Punta Minchia, che c'è sta sciata polverosa. Di mattina vai a visitare il bar della signora Lauria, lo vai a visitare, basta, perché non c'è caffè, cappuccino, non c'è cornetto. La saluti, vai lì, signora, buongiorno. Vabbè, questa è Punta Minchia, ma so che me sto segnando le coordinate. Vai a visitare il bar e dici: signora Lauria, non c'è una minchia, ma la saluto lo stesso. E di mattina poi di pomeriggio diciamo vai, visita il negozio dall'altra parte della strada, l'edicola della signora Lauria. Ci sono i giornali? Sì, quelli della settimana precedente. Perché arrivano tardi, ma è l'unica edicola che ha il giornale anche a Natale, a Santo Stefano, perché sono quelli il 18-19 dicembre. Quindi se vuoi trovare il quotidiano Natale, vai nell'edicola di Punta Minchia della signora Lauria. Natale a Punta Minchia è un'idea. Poi il sabato fai una bella grigliata da Pippo. Un bacino e panettone, Natale a Punta Minchia. potrebbe fare. Domenica, questo è già preso come titolo. Domenica mattina ricominci con una bella collezione grigliata da Pippo e poi si mette un pesciata a tutte le sedie per la messa di Tondino, perché siccome non c'è la cappella si fa la cosa pesciata, la messa pesciata la fa Tondino, che si inventa delle parabole per fare anche un momento di divertimento. Per esempio dice: viveva in un villaggio un uomo che aveva due figlioli, il primo era un lavoratore, il secondo un amante della bella vita. Un giorno il secondo dice al padre: padre, dammi la mia parte di eredità che mi spetta, poi che voglio andare in città a gozzovigliare e a spassarmela con le donnine. E allora il padre rispose: va bene, vengo con te. Questa è una bellissima queste sono le parabole di Punta Minchia. Tondino, ma in che regione è Punta Minchia? Ma è una regione che non esiste, non è identificata, non c'è una minchia della regione neanche. Però invitiamo tutti gli ascoltatori di Funamboli a venire a trovarci per il fine settimana a Punta Minchia. Grazie, io ho fatto il mio fine settimana, questa volta tocca a voi. Caro geometra Sebastiano Natale a Punta Minchia, sindaco e assessore al turismo e un po' di più. Vabbè, oh, la ringraziamo. Noi diamo questa idea. Il cinepanettone non è male. Natale a Punta Minchia con te messo in slippino, tipo, no, sai la. Ma c'è il mare. Toy Boy. No, non c'è, non c'è una minchia. Ho detto di no. Anche tu insisti, però. Va bene, va bene. Che idee per il weekend. Non lo so, Andrea da Varese, buongiorno, forse il nostro ultimo ascoltatore di oggi, se non c'è tempo. Andrea, mi ha dato questo suggerimento per il weekend, ma non credo al nostro Leonardo Manera. No, non è di questo che ci vuole parlare, Andrea, non vero? Credo. Io voglio il numero di Pippo, assolutamente. Di Pippo voglio per le grigliate. La vedi? La grigliata da Pippo. Eccoci, Andrea, che ci vuole dire? Volevo dare un piccolo contributo sul discorso degli smartphone, Alessandro. Secondo me puntare il dito contro il mezzo non ha molto senso, perché in realtà è uno strumento che, a mio modo di vedere, potrebbe essere utilissimo. Bisogna fornire i criteri per utilizzarlo. Eh sì, ma sono tutto d'accordo, qui. È quello che si diceva dell'educazione. L'educazione. No, ma Andrea ha perfettamente ragione. Ti ringraziamo, andiamo Alberto da Milano, ce la facciamo anche lui. Alberto, se è conciso, per favore, Alberto. Sì, salve, buongiorno. Guardate, io insegno all'università. Sì. Da circa 13 anni, quando davo le ricerche per le tesi 13 anni fa, qualche ragazzo veniva e diceva: professore, ma io su internet non ho trovato niente. Io 13 anni fa potevo rispondergli: beh, si vanno a chiudere in biblioteca, scusi. Oggi invece questa risposta non è più possibile. No. E c'è la differenza, però, che trovano tutti le stesse cose. Questo è vero, perché si fermano al primo sito, no? Si fermano. Questo è vero. Quindi, questo è vero, no, Alberto? Tutti su Wikipedia. Più o meno sì. No, questo è vero, il problema è che poi cercano tutti le stesse cose, quindi... Si sviluppa meno la creatività e il... Sì. L'individualità e l'ingegno. Detto allora, questo, tu dirai: smartphone o non smartphone, è venerdì, e quindi esatto, tanti come canta cari saluti. Ligabue. Ci ritroviamo lunedì con Alessandro. Ma perché Alessandro Togherato? Lorenzo Nespoli. Questa è la mitomania autoreferenziale. No, Elisabetta Fusconi, Elisa Pancaldi, Peter Bescapè, regia. Ovviamente adesso tutti gli aggiornamenti sull'onda del giornale radio con Veronica Gentili, Leonardo Manera e quella bella bionda sciocchina, smettila, di Alessandro Milan. A lunedì.